24 mattino. Rieccoci, la rassegna stampa, Luca Telese, i vostri messaggi al 349-238-6666, i messaggi che mi aiutano nella rotta, nella navigazione, e oggi però non possiamo che partire da lì, da Ryanair, dal cielo. Tutti ci operaria, tutti quanti storie. Ryanair, stop su Alitalia, ci ritiriamo dalla gara, il dietrofront di Dublino rafforza l'asse Lufthansa Etihad. E questa è giustamente l'apertura di Finanza e Mercati del Sole 24 Ore. L'articolo di Giorgio Pogliotti ci racconta che cosa sta accadendo. L'effetto emergenza nei cieli spinge Ryanair a ritirarsi dalla gara per Alitalia. In una lunga nota, il vettore irlandese ha annunciato, accanto alla riduzione dei voli fino a marzo, che, virgolette, saranno eliminate tutte le distrazioni per il management, a partire dall'interesse per Alitalia. E annuncia di aver notificato ai commissari straordinari che non proseguirà l'interesse per Alitalia, non verrà presentata alcuna ulteriore offerta per la violina. Guardate che è molto grossa, perché da un lato c'è un problema strategico industriale, dall'altro però continuano i disagi per il primo vettore italiano di aerei. Allora, la storia sul fatto, a pagina 8, mette l'accento anche sull'altro aspetto: Ryanair lascia a terra i passeggeri e l'Alitalia. Caos piloti, senza volo altri 400.000, e per la compagnia italiana la vendita può slittare fino al 2018. Leggo anche qui, il pezzo è siglato Carlo Di Foggia. La grave crisi organizzativa di Ryanair costringe la compagnia a lasciare a terra altri 400.000 passeggeri, ma anche a mollare la presa su Alitalia. Ieri la società guidata da Michael O'Leary si è ritirata fuori dalla gara messa in piedi dai commissari che da maggio scorso gestiscono in amministrazione straordinaria l'ex compagnia di bandiera. Insomma, questa ondata che non si ferma opera su due piani e soprattutto ha ripercussioni per chi vola. Ieri, sentite ancora di Foggia, Ryanair ha deciso di mettere a terra altri 25 aerei per la stagione invernale novembre 2017-marzo 2018, sospendendo ben 34 rotte. 11 riguardano aeroporti italiani, di cui 7 interessano lo scalo di Trapani, 3 con città europee e 4 con Parma, Genova, Roma e Trieste. Saltano anche le rotte fra Venezia, Amburgo e Sofia, il collegamento fra Pisa e Sofia e quello fra Palermo e Bucarest. Ovviamente in un momento di difficoltà magari la compagnia tende a tagliare le rotte meno redditizie. La scorsa settimana, dice ancora Carlo Di Foggia sul fatto, la compagnia aveva comunicato la cancellazione di 2.100 voli, 702 per l'Italia, in 6 settimane, e più di 300.000 passeggeri lasciati a terra, causando grandi disagi. Insomma, è un momento triste e complicato per questa compagnia e anche per noi che siamo il popolo, come diceva il grande Paolini, il popolo dei tigi, parlando del ITG, della sigla dell'IC9 di Acustica, il popolo di quelli che volano, di quelli che rimangono a terra. E allora cambiamo totalmente e andiamo allo Ius Soli, anzi allo Ius Boschi. Allora, sapete che continua a essere una rassegna stampa in cui ogni giorno io ho una versione diversa su quello che accade sullo Ius Soli. Allora, un giorno paro lo Ius Soli è stato accantonato, il giorno dispari viene ripreso, ieri sembrava che il governo volesse farci, ricordate l'intervista di Orfini, presidente del PD, assolutamente bisogna votarlo, non si può fare a meno. Adesso è giorno disparo, quindi è giorno paro, e quindi la Boschi torna a dire che non si farà. E il suo intervento alla festa dell'Unità di Roma, vi abbiamo dato anche qualche frammento audio, i nostri potenti mezzi siamo andati ad ascoltare, e il nodo è questo: Silvio Buzzanca ha parlato soprattutto di questo, e guardate che cosa dice: Ius Soli nella prossima legislatura, ora non abbiamo i numeri. Ma per la Finocchiaro resta sempre un obiettivo del governo dopo il DEF. Chi ci capisce è bravo. E allora leggiamo cosa dice Buzzanca su Repubblica a pagina 4. La legge sullo Ius Soli la approveremo nella prossima legislatura, se avremo i numeri. Maria Elena Boschi mette la parola fine al balletto di ipotesi su fiducia, date, numero di voti pro o contro. È complicato trovare una maggioranza in Parlamento, dice la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Lo dico con dispiacere, perché è una legge giusta, è una legge equilibrata, ma sappiamo che avere i numeri per approvare questo provvedimento è molto complicato. Una presa d'atto, scrive Buzzanca, Repubblica, sul cui esito la Boschi non lascia dubbi. In passato, ha spiegato, ci sono state fasi in cui abbiamo scelto di mettere la fiducia, ribadisce, ma oggi non abbiamo i numeri. È la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio del centrosinistra che lo dice. Assicura però ai militanti presenti alla festa dell'Unità di Roma che se alle prossime elezioni il PD avrà una maggioranza numericamente più importante, se ci sarà questa condizione, lo Ius Soli sarà in cima al nostro programma. Secondo me è complicato trovare numeri in Parlamento, lo dico con dispiacere perché è una legge che secondo me andrebbe fatta, è una legge giusta ed è una legge a cui abbiamo anche lavorato tanto alla Camera dei Deputati, ed è una legge equilibrata, si sentono tante cose in giro non vere su quello che prevederebbe questa legge, in realtà è una legge comunque a mio avviso equilibrata. Sappiamo anche che adesso avere i numeri per approvare questa legge è molto complicato visto la situazione attuale. Oggi trovare i numeri per approvare lo Ius Soli mi sembra molto, molto complicato. E pensate come è dispiaciuto Salvini. Lo Ius Soli è una vittoria della Lega, ma soprattutto degli italiani e di milioni di immigrati di buon senso che chiedono un paese più serio, più sicuro, con regole certe e non cittadinanze omaggio come a Luna Park. Io ricordo, e l'ha capito perfino Alfano, e se l'ha capito Alfano lo può capire chiunque, che con la legge vigente l'Italia è il paese in Europa che dà più cittadinanze. Allora, non è su tutti i giornali, ma secondo me hanno fatto bene due quotidiani ad aprire su due episodi di guerriglia. Allora, a pagina 4 del giornale, Stefano Vladovic, italiani contro Rom, notte di guerriglia, pensate, famiglie con bambini sulle barricate, un furgone sfiora la folla, poi scatta la rivolta a Guidonia. Notte di scontri ieri, racconta Vladovic, alla periferia est di Roma. Da una parte un campo rom abusivo, dall'altra gli abitanti della zona stanchi di una convivenza impossibile. Basta poco, un bosniaco su un furgone con tanta voglia di provocare scatena l'inferno in contrada al Buccione, fra Tivoli Terme e Villalba di Guidonia, lungo la via Tiburtina. Sono passate le 22 di martedì, è una forfiesta poi rimenuta nel campo e risultata rubata a Sette Camini la mattina stessa, a provocare una prima insurrezione popolare quando per un soffio non investe una donna con una bambina. A guidarla, dicono, il quartiere ci sarebbero i figli del Rom. Passano i minuti, monta la rabbia, a scagliarsi contro il drappello di gente accorsa in aiuto della giovane mamma e della figlia, arriva un Iveco rosso lanciato a forte velocità. Al volante lo straniero AH, 46 anni, padre dei presunti pirati della strada. L'uomo viene bloccato poche ore dopo dai carabinieri di Tivoli con delle armi a bordo. Il mezzo avrebbe sfiorato il gruppo di passanti inferociti per i fatti appena accaduti. E poi una notte di rivolta. E sulla Stampa, questo non l'ho visto da nessun'altra parte, ma è altrettanto interessante, sentiamo la voce di quello che accadeva. Dopo svariati tentativi di comunicazione tra noi e loro. Loro chi? I Rom. Continuavano comunque a correre in piazza, a fare ubriachi con le macchine. Ieri con una macchina rubata hanno quasi ucciso due persone, perché hanno lisciato una bambina di 7 anni e la mamma. Foggia, rivolta contro il ghetto. Siamo ormai ostaggi della mafia nigeriana. La sfida dell'accoglienza, titola la Stampa nell'occhiello, ma Nicolò Zancan è andato a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove il centro migranti, racconta, è stato inghiottito dalla baraccopoli abusiva. I cittadini siamo abbandonati allo Stato, qui lavorano solo i neri. Vedi montagne di rifiuti stratificati, roghi di plastiche, fumi neri, niente bagni, un traverso continuo di persone, le ragazze, nuove anch'esse appena arrivate da Foggia, in attesa su vecchi divani sfondati davanti alla baracca bordello. C'è una grande discoteca sotto una tettoia verde, la chiesa degli africani, il ristorante dei pakistani, ma la zona più grande è quella gestita dalla mafia nigeriana, dove comanda un tale con due occhi allucinati che, seduto davanti a una bandiera americana con tre cani tristi fra i piedi, domanda: tutto a posto? Belle queste cronache quando ti mettono dentro una storia. Questo è Zancan sulla Stampa. Si potrebbe iniziare da una ragazza nigeriana di 23 anni di nome Victory, spogliata e bruciata viva proprio qui nel mese di dicembre, probabilmente perché voleva opporsi al suo destino, oppure dalla richiesta ancora valida, formalizzata da quasi tutti i residenti del paese, per ottenere una linea di pullman dedicata a loro, un pullman per soli bianchi. Perché la circolare, dicono, è piena di stranieri. Noi siamo 700, loro più di 5.000. Dove lo Stato dimentica di esserci, fioriscono i ghetti, l'emarginazione e la rabbia, che a quel punto purtroppo diventa legittima. Cambio, cambio. Usciamo. Ah, usciamo con il ritmo rock. Bravo, bravo. È una grande regia. E andiamo in Catalogna, dove è un conto alla rovescia, è un conto al rallentatore verso una data che si avvicina sempre di più, quello di questa consultazione, e ogni giorno accade qualcosa. C'è anche un grande pronunciamento di intellettuali progressisti, spesso anche vicini alla causa della Catalogna, ma contrari alla separazione. Oggi sul Corriere della Sera il grido d'allarme di Xavier Cercas: al voto con 30.000 agenti in strada, ci racconta il Corriere della Sera, attenzione alle stelle, a tre giorni, ricordatevi, segnatevi la data, dallo scrutinio per l'indipendenza. Questa è la corrispondenza di Nicastro, pagina 10 del Corriere della Sera. Quattro navi cariche di agenti inviate finora a Barcellona per impedire il voto, ma l'intervista di Nicastro è a Xavier Cercas, il grande scrittore spagnolo, un libro memorabile, andatevelo a vedere se vi piace la storia contemporanea, Anatomia dell'istante, racconta il golpe di Tejero. Ebbene, lui, che ha raccontato quel golpe di destra nel carnevale di Valencia, che voleva restaurare il franchismo impossibile, bene, oggi si schiera decisamente contro la separazione e cita una bellissima massima di George Bernard Shaw, dove, che recita così: l'unica cosa che si impara dall'esperienza è che l'esperienza non insegna nulla. Allora, in una battuta, si è ribaltato l'ordinamento catalano senza passare dalla legge. Questo è un colpo di Stato, un golpe ben fatto, perché senza violenza, ma pur sempre un golpe. Ci fermiamo per un attimo, pubblicità e meteo. Mattino. Vedi che bel sito! Te ci hanno mai cliccato sopra? Lo sai che c'è un sorriso verticale da favola? Gli manca solo la parola. Suscita polemica nei vostri messaggi, giusto, il fatto che abbia detto giorno paro. Dice giorno paro, si dice solo a Torbella. Vabbè, qualche volta possiamo dire anche qua un po' di romanofonia. Poi riequilibreremo con battute di nordici. Allora, le aperture, il Foglio, meglio 12 che 5 stelle, una proposta di Cerasa, interessante. Mettete a Forza Italia e PD, mettete le stelle della bandiera europea nei vostri simboli. Patto Italia-Francia per rilanciare l'Europa, vertice di Lione, La Stampa, Macron a Gentiloni, un trattato del Quirinale come quello con i tedeschi del 63. Repubblica, corruzione come la mafia, e questo è molto importante, il principio fissato per le misure preventive e sequestri nella legge approvata dal Parlamento. Cantone critico, la Bindi, un regalo al paese, nessuna modifica. PD diviso, l'ombra di un patto, questa è l'apertura di Repubblica. Non si interroga Renzi, apertura diversa del Fatto Quotidiano, che racconta come il GIP impedì di interrogare il Presidente del Consiglio su Consip. Il Corriere della Sera: nasce il colosso dei cantieri navali, anche se l'apertura tecnica e sulla Spagna, la verità, i giudici come i professori dei concorsi truccati si spartiscono gli incarichi. Il Messaggero, la spunta l'Italia, STX, Affincantieri, oddio, dov'è finito Libero? Non me lo trovo, sono un disastro, eccolo, Libero, prima ti sottraggono i soldi, poi con calma ti processano, è un articolo tutto diverso dagli altri sul sequestro dei conti correnti. Ma adesso è giunto il momento del money. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Allora, parto dal Corriere della Sera perché è una vicenda su cui continuano a uscire pezzi, articoli, però in questo caso veramente è Milena Gabanelli a porre ancora una volta il tema della tasse su le grandi industrie della rete. Quanto evadono in Italia? Vedete, il titolo è sobrio. Facebook e Google. Le stime sui ricavi italiani dei due colossi internet e il confronto con le tasse che pagano. E è un pezzo molto lungo, un'intera paginata, e su YouTube nel 2016, racconta la Gabanelli, Corriere della Sera, pagina 31, Barilla ha investito 1.9 milioni di euro, Coca-Cola Italia 6 milioni di euro. I giganti del web, però, avverte la Gabanelli, non contribuiscono alle politiche economiche degli stati in cui fanno profitti. Allora, cominciamo a fare due conti, scrive Gabanelli. In Italia, che è anche il primo paese al mondo ad aver fatto scucire a Google 306 milioni di euro per gli utili prodotti nel nostro paese dal 2002 al 2015. Un miracolo, ma sono solo noccioline. Invece, sul 2016, con un mercato in costante crescita, 12% nell'ultimo anno, quanto dichiarerà Google? L'ultima data disponibile, riportata da fonti aperte, relativa al fatturato italiano del 2015, è 65 milioni di euro, con imposte pagate, udite udite, questo lo dico io, per quasi 3 milioni di euro. Probabilmente è il volume d'affari tracciato, ovvero quello che proviene da piccoli inserzioni che pagano con carta di credito. Pizzerie, ristoranti, commercianti, le grandi aziende invece che sul web stanno investendo sempre di più, pagano con bonifico a Dublino, questo è il problema. Ma quanto? Quanto incassa Google? Non lo dice nessuno, per cui all'Italia nulla è dovuto. In assenza dei dati certi, l'Agenzia delle Entrate dal 2016 in poi dovrà usare la sfera di cristallo se non cambiano le regole europee. Ho letto un po' a lungo, ma guardate che è una questione veramente incredibile. E non si sa quanto dichiarano e non sono particolarmente interessati a non pagare. Ancora sul Corriere della Sera, l'apertura di pagina 2 e 3... Tutti i debiti e i ritardi dello Stato e migliaia di enti non pagano un euro. Sono due pagine compilate con dovizia e dettagli da Antonella Baccaro e Federico Fubini che raccontano come lo Stato sia il pessimo pagatore. Pensate, il pagatore più veloce in Italia è il Senato della Repubblica e lo volevano abolire! Il peggior pagatore invece è, non ci crederete mai, Expo. Deve ancora dare 194 milioni di euro. Ha pagato, leggo dalla Baccaro e da Fubini, zero. Io non so, mi sembra una cosa un po' incredibile, però è il Corriere della Sera ed è quindi una cosa che va assolutamente affrontata. Sul Messaggero, a pagina 5, c'è questa vicenda del cumulo. E voi sapete che il cumulo, che sembra una parola astrusa, sembra che non ci riguardi, è la vostra vita. Cioè qualunque persona nella nuova generazione, praticamente tutti, abbia dei contributi che sono in parte all'INPS, in parte a un'altra cassa previdenziale, deve fare il cumulo, altrimenti niente pensione. È una generazione precaria che fa i salti mortali. Ebbene, avevamo detto lo risolviamo, tranquilli. Lo risolviamo con la finanziaria. E invece il caso, il Messaggero, pensioni, non decolla il cumulo gratuito per i professionisti, manca la circolare. Era una speranza per molti lavoratori e il pezzo non è firmato sul Messaggero, con una carriera frastagliata che speravano in questo modo di arrivare alla pensione. Ma il cumulo gratuito dei contributi per ottenere un solo trattamento previsto con la legge di bilancio 2017 non è decollato, in particolare per quanto riguarda le casse previdenziali private. Oggi la vicenda sarà argomento di un'interrogazione al Ministro del Lavoro in commissione alla Camera. Però il fatto che questa legge non ci sia riproduce una cosa vergognosa. Per poter avere la vostra pensione, voi dovete pagare. Per cumulare due casse dovete pagare. Questo è un furto. Che? No, scusa, fammi risentire. Beh, è una risata di Giannino a dir poco terrificante. Allora, la pagina dell'economia l'abbiamo finita. Cose importanti per la politica. Casini, nominato alla testa della commissione sulle banche, quello che l'aveva definita deleteria. Sul fatto a pagina non so quale... eccolo qui, si scherza su questa cosa. Casini, l'uomo che non voleva la commissione, che adesso dovrà guidarla. E vabbè, capita, nella politica italiana capita. Invece è interessante il pezzo che riguarda il retroscena, che riguarda Pisapia. Sì, perché c'è un nuovo aggiornamento anche sulla vicenda di Pisapia. Sul foglio, un cronista attento alla politica come Davide Allegranti ci racconta che c'è un piano segreto per rifondare l'Ulivo con Pisapia ed Enrico Letta, cioè ci sarebbe per verificare una nuova scissione della scissione. Quelli che erano usciti, vi devo riassumere le puntate, da Sinistra Italiana per andare a un campo progressista con Pisapia e unirsi a quelli del movimento di Bersani per fare un nuovo partito, starebbero per uscire e fare un nuovo partito con leader Enrico Letta, un partito olivista separato da quello Sinistra Italiana. Il piano sarebbe questo, scrive Allegranti. Giuliano Pisapia darebbe il suo addio, questa volta definitivo, e ci mancherebbe, al tandem D'Alema-Bersani per lavorare alla creazione di un Ulivo nuova versione. Un Ulivo, ma non si chiamerebbe così, con dentro Franceschini, Orlando, Romano Prodi, Giorgio Napolitano, a fare da padri nobili, ognuno per la sua area politico-culturale di riferimento. Pisapia leader ed Enrico Letta, che però pare non essere ancora definitivamente convinto, candidato premier. Ale, vai, strade! Quattro mattino. Allora, grande Eric Clapton, ha detto niente più concerti, e allora noi lo mandiamo. Canta solo per noi, in esclusiva per 24 mattina. Allora, va bene questa come musica, perché c'è un po' di Amarcord in Eric Clapton, e è bella questa intervista di Carla Spagnoli, una paginata intera, Giorgio Candola sulla Verità. Sapete chi è? È la nipote di colui che ha inventato, dell'inventrice del bonbon, il più famoso d'Italia, il Bacio Perugina. Ebbene, è un'intervista che racconta la storia di una grande dinastia d'italiana di imprenditori, racconta il genio, il talento di chi ha inventato tante cose, non solo quel famoso cioccolatino, ma è un'intervista velata di tremenda malinconia, perché quello stabilimento, visitato da Renzi solo un anno fa, sta chiudendo. E allora iniziamo a raccontare questo. Nel 1988, racconta lei, a Gandola fu ceduta a Buitoni Perugina la Nestlé per un cifrone, 1600 miliardi. E però da allora sono iniziati i problemi, scioperi, contro scioperi, questioni aperte, è una vicenda lunga, non l'ha raccolto. E adesso, con grande amarezza, guardo l'antica casa della bisnonna che mio padre ha lasciato a me, leggo sui volti malinconici degli ex dipendenti che quando ricordano che cosa fu la Perugina. È un grande declino, lo vedo nelle mosse sbagliate di questi anni, negli errori dei sindacati che prima firmano un accordo per 340 esuberi e poi, ora, si giustificano dicendo di non aver capito i contenuti dell'accordo. Sì, perché questo accordo sta portando la produzione della Perugina lontana dall'Italia. E come nacque quel bacio? Era un cioccolatino di recupero. Il segreto fu rivestire con il cioccolato fondente la morbida graniglia di nocciole spappolate degli scarti di produzione. La bisnonna, per renderlo più armonioso, ci mise sopra una nocciola, ovviamente a mano, cosa che oggi sarebbe impensabile. L'avevano chiamato, pensate un po', cazzotto, perché sembrava la nocca di un pugno. Ma come fai a regalare un cazzotto per il compleanno di tuo figlio o per ringraziarti l'amata fidanzata? Così in nome fu cambiato in bacio e tutto funzionò. Erano gli anni 30, un giorno Benito Mussolini arrivò in visita alla Perugina, ci sono i racconti e le foto di lui e di Luisa che gli offre un cofanetto e alla fine il duce disse: vi autorizzo a dire che questo cioccolato è ottimo, vai! Allora, l'altra cosa incredibile è che il nonno della signora Carla Spagnoli ha anche un altro copyright in Italia, quello dei surgelati. Nella sua vita fece di tutto, incrociò tori di razza speciale selezionando animali da premio, aveva lo stesso DNA di Luisa Spagnoli, non si ferma mai. A un certo punto si rinchiuse nel suo laboratorio e prese a raffreddare tutto a 18 sotto zero. Credevamo che fosse matto e quando andavamo a trovarlo Papallino ci impediva di mangiare per paura che ci avvelenasse. E invece stava sperimentando i surgelati. Il genio italico! E invece adesso quello stabilimento chiude perché stanno spostando tutto all'estero, parte dei brevetti della produzione vanno in altri paesi e questa è la nota di malinconia. Pensate, Carla Spagnoli che difende la società fondata dalla sua famiglia e criticando i sindacati che hanno firmato l'accordo che ha prodotto gli esuberi. Allora siamo arrivati alla mitragliata. Ovviamente quella lunga intervista, siccome ho letto tanto, era sulla Verità ed era di Giorgio Gandola. Allora, ubriaco provocò un incidente. Il giudice lo mette alla prova, convince i ragazzi a non bere mai. Cronache del Corriere della Sera, pagina 17, un gustoso pezzo di Luigi Ferralella, perché è bella è la storia. Uscire dalla discoteca alle 3 del mattino mezzi ubriachi o strafatti di droga, stare per mettersi la guida e però trovare un tizio fuori che ti bussa al vetro, ti mette in mano una cartolina similmulta con tutte le possibili disastrose conseguenze di quel superficiale comportamento e con sanzioni potenzialmente rischiate. Potrà capitare a Milano il giovedì e il sabato notte a quanti fuori dalle discoteche si imbatteranno non in uno strano vigile urbano che levi contraddizioni, ma un normale automobilista che il tribunale ha costretto a questo lavoro. Era un imprenditore ricco di 59 anni, era al volante in stato di ebbrezza, provocò un incidente e adesso deve ripagare così, andando a bussare i vetri dei ragazzi fuori dalla discoteca. È fantastico, ogni tanto accadono cose belle. E racconta, se volete leggere, Ferralella sul Corriere a pagina 17, le chiamano multe morali. Vai! Twitter raddoppia, è un dibattito che si trascina da giorni. Perché lo avevo trascurato? Non lo so, perché c'erano sempre tante notizie. C'è una raccolta Martina Pennisi sul Corriere a pagina 28. Twitter raddoppia il numero dei caratteri, basteranno a salvarli? Racconta l'editorialista del Corriere della Sera, si passa da 140 a 280, si potranno scrivere messaggi lunghi ed è polemica. C'è gente che dice: oddio, non sarà più il Twitter di una volta, viene smontata la complessità e la semplicità narrativa di quel messaggio conciso. Ma se tu vuoi scriverlo corto, scrivilo corto, ma roba da matti, guarda. Allora, Allora, veneziani su Libero, sulle saudite, questo è un pezzo che è doveroso, che mancava, perché sapete che ieri abbiamo letto con piacere ovviamente la notizia che esce dal Medioevo l'Arabia Saudita e consente alle donne saudite di guidare il volante, però a veneziani è venuta in mente un'idea e forse a Senaldi, il suo direttore, giusta. Quante cose sono ancora vietate alle donne saudite? Alle saudite è permesso guidare, scrive, ma tutto il resto rimane proibito. Il principio che informa la vita di una donna saudita ancora nel 2017 è l'invisibilità. Una corrente prevalente di pensiero la vorrebbe chiusa fra le mura di casa a fare la moglie e la madre insieme per non mostrarsi e obbedire al suo ruolo comandato. E ancora una volta fuori, la donna non si deve mostrare scoperta, gira coperta da lunghi e scuri veli quasi fosse in perenne lutto, e nei luoghi pubblici, dagli uffici e fast food, resta rigorosamente separata dai maschi grazie, pensate, ad apposite aree che sono congegnate per tenere lontano le donne dagli uomini. Anche se si vede la donna, però, questa è la cosa più grave, non può mai essere sola, deve essere sempre seguita da un guardiano. E chi è questo guardiano? L'unico uomo che può starle intorno? Il marito, il padre, il fratello o il figlio, che le deve dare volta per volta, quando entra in un negozio, quando fa delle commissioni, il permesso per compiere azioni comuni come comprare un biglietto per viaggiare, come comprare un libro per studiare, come poter fare una domanda per lavorare e perfino per curarsi. Se va dal medico deve avere a fianco il guardiano che gli dice: puoi prendere la ricetta, puoi prendere questa prescrizione dal medico, puoi andare in farmacia e comprare quel farmaco. Non è finita, deve essere accompagnata fisicamente persino in alcune attività come fare shopping. In quest'ultimo caso la donna si farà portare nei negozi dal suo assistente maschio, che naturalmente controllerà il tipo di abbigliamento comprato, ci mancherebbe, e vigilerà che prima dell'acquisto lei non provi i vestiti. E già, sarebbe troppo impudico poterlo fare, perché una donna non si può vestire e svestirsi nemmeno dietro un separé. Vabbè, era doveroso leggere questo pezzo, a me sembra una follia, cioè noi stiamo parlando veramente di Medioevo e questi sono i grandi, grandi alleati dell'Occidente, quelli che ci aiutano a rispettare la libertà. Allora, due messaggi, niente da dire su Atac, e vabbè, ma non posso leggere le cronache delle pagine di Roma, già mi dicono che parlo in romanesco, poi leggo anche della liquidazione dell'Atac. Il problema è la multa morale o ridursi in quello stato fra droga e alcol? Questa è una bella domanda. Ci fermiamo un attimo, GR Strade, e sulle strade prudentissimi, mi raccomando.